Noi personalmente non abbiamo vissuto l'azione a ridosso della zona rossa, in un primo momento addirittura il corteo dell'Alternative G8, che è la parte probabilmente un po' più moderata e anche un po' più istituzionale, era stato vietato proprio perché durante l'intera nottata, l'intera mattinata ci sono stati questi blocchi molto caotici, molto disorganizzati, ma che nella cui disorganizzazione si è riuscita a creare un'organizzazione che ha portato veramente a un blocco effettivo, una cosa che probabilmente non si vedeva da qualche anno a livello di tutte queste manifestazioni globali. E comunque anche la parte appunto dell'Alternative G8 ha avuto comunque un successo, perché dopo il primo divieto la polizia ha poi permesso ai militanti di scendere a ridosso dell'albergo di Glen Eagles, e c'è stata appena una specie di catena a mano in cui 2000 persone passa sono riuscite ad arrivare a ridosso delle barriere, e improvvisamente sembra che più di 400 persone sono riuscite a penetrare all'interno hanno praticamente sfondato le prime barriere grazie anche all'aiuto della polizia, che probabilmente ancora una volta inspiegabilmente quasi si è trovata un attimino impreparata. Queste 400 persone sono entrate in maniera comunque molto pacifica, sono entrate, sono riuscite appunto a passare il primo dispositivo di sicurezza, sono entrate nel parco contiguo all'hotel Glen Eagles, e lì sono sedute e sono state minacciate precedentemente dalle forze della sicurezza, che poi hanno comunque iniziato a caricare, hanno portato via parecchie persone, parecchi attivisti, parecchi sono stati gli arresti, e c'è stato penso un mezz'ora, un'ora che non si capiva bene cosa stava succedendo, si parlava addirittura di un intervento delle forze speciali inglesi, cosa che poi sembra non sia avvenuta. C'è stato un episodio abbastanza inquietante del tipo un elicottero, qua gli elicotteri sono tantissimi, ci sono addirittura degli elicotteri che trasportano probabilmente personale specializzato, poliziotti, militari e quant'altro, e di media. E questo elicottero è volato bassissimo, flashando una luce insistente abbastanza forte sui manifestanti, cosa che ha provocato parecchio spavento. Comunque alla fine penso che anche questa sia risolta bene, la maggior parte degli attivisti sono tornati al campeggio dove siamo qua ora noi. Anche questa azione appunto ha avuto la sua efficacia all'interno di tutte queste azioni che ci sono state. E niente, adesso si sta preparando la giornata di domani, anche qua ci stanno pensando a vari blocchi, comunque ancora delle cose che permetteranno di creare comunque, di continuare con questo schema del caos organizzato, e niente, parecchi gruppi si stanno già muovendo per raggiungere dei posti dove pensare di bloccare questi delegati.